Radio Popolare presenta La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buongiorno a tutti, parleremo di buone prospettive per l'altra metà dell'universo umano del paese, di calchi linguistici e cattive coscienze, di Stalin e Paesiello, nonché cercheremo di porre un dubbio, almeno un dubbio per i prossimi genitori di gemelli.